Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Qui, ragazzi e ragazze, fumate tanto, troppo, e questo non va bene. Benvenuti e benvenuti a Möbius, sentiamo i titoli che iniziano proprio da qui. Ansiosi, preoccupati e disorientati sono i giovani adolescenti fumatori. Lo rivela una ricerca presentata in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco. Da Ginevra al Gran Sasso viaggia uno degli oggetti più piccoli di tutto l'universo, un neutrino. Lo si aspettava da tanti anni. Sono forse un po' più chiare le cause della moria di api che si è avuta in questi ultimi anni. Un brevetto italiano potrebbe salvare molti alveari. I grandi anni della fisica italiana alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tanti grandi personaggi, ben poco conosciuti. Nelle case italiane ci sono 6 miliardi di euro di apparecchiature elettroniche inutilizzate ma funzionanti. È il risultato di un'indagine commissionata da eBay. Io ho poco da aggiungere a quanto detto in apertura di trasmissione. C'è un'inchiesta sul fumo e i dati sono brutti. Ve ne parla Chiara Albicocco. Ansiosi, preoccupati e disorientati sono i giovani adolescenti fumatori. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, che si è celebrata questa settimana, è stata presentata una ricerca sul rapporto tra i giovani e il fumo di sigaretta. La ricerca è stata svolta nelle scuole di Milano tra ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Ma si estenderà presto anche in altre città. Il profilo che ne emerge è che un adolescente su tre fuma per essere accettato dagli altri e per combattere l'ansia e lo stress, ma non solo. Il dato che sembra più preoccupante è che siano le fumatrici femmine ad essere in forte aumento. E su questo fronte questa settimana anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme. Ma sentiamo che cosa è emerso dalle parole di Enrico Finzi, che è presidente di Astra Ricerche, che è l'ente che ha condotto lo studio in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi e l'Assessorato alla Salute di Milano. Intanto splendidamente ci hanno risposto quasi 4.500 ragazzi delle scuole medie superiori, una partecipazione straordinaria. È emerso che più o meno uno su tre negli istituti tecnici e nei licei fuma, che fumano di più le donne purtroppo, che fumano molto di più quelli che hanno genitori che fumano, a partire dalla mamma che ha una responsabilità essenziale, che quelli che fumano si descrivono come peggiori, meno responsabili, più egoisti, più razzisti, più superficiali, più consumisti, più nervosi, più nevrotici, con peggiori rapporti di coppia e in famiglia. Quindi fumare fa male. È emerso che i giovani sottovalutano i rischi del fumo, perché il tumore che ne deriva viene molto più tardi, non viene subito, e che invece è molto importante insistere non solo su questi rischi ma anche su quelli a più breve termine. Pensiamo alle ragazze, ti peggiora la pelle, ai ragazzi non cucchi perché puzzi. No, la litosi da fumo, perdi efficacia sessuale, perdi efficacia sportiva, per molti è importante. E poi è emerso che un ragazzo su due tra quelli che fumano vuole essere aiutato a smettere, e abbiamo chiesto a questi 4.400 ragazzi cosa si deve fare, bastone e carota. Divieti da rispettare, non vendiamo davvero le sigarette ai giovani, fuori le sigarette dalle scuole, anche per presidi e professori, anche negli intervalli, anche in cortile o per strada, aumento forte del prezzo delle sigarette, provvedimento che sarebbe largamente impopolare tra gli adulti, rendeteci più difficile fumare, e questo è il bastone. La carota è informateci, fateci vedere i danni del fumo, proprio le fotografie del polmone marcio già a 45 anni e così via, dateci una mano, perché smettere di fumare è difficile, si fuma in compagnia, si fuma per conformismo, si fuma per contro lo stress, anche se poi il fumo di per sé aumenta lo stress. Insomma, è venuto fuori un quadro per certi versi preoccupante della società giovanile milanese. Il problema maggiore che emerge è che questa è la prima generazione del dopoguerra che non ha fiducia nel futuro, che pensa che il futuro si sia ammalato e che i propri genitori e i propri figli, i propri nonni hanno avuto un loro futuro migliore di quello che hanno i giovani, quindi c'è un diffuso disagio economico, sociale e psicologico, ma ci sono anche aspetti positivi di intelligenza, di consapevolezza, di umanità. I giovani possono fare molto e hanno in parte intenzione di farlo, gli adulti possono fare moltissimo, a partire dal sano buon esempio nelle mura domestiche e fuori. Come è stata fatta la ricerca? Abbiamo fatto una fatica boia perché abbiamo dovuto convincere le scuole, e ne abbiamo convinto decine e decine, più di 30, a consentire di dare un questionario lunghissimo e anonimo naturalmente ai ragazzi. La collaborazione è stata straordinaria e per una volta presidi, professori, giovani stessi ci hanno dato una risposta esaltante. Avevamo per contratto di fare almeno 2.000 interviste, ne abbiamo fatto 4.400. Dopodiché abbiamo codificato e elaborato i risultati, spero che metteremo online presto tutto, ma comunque chi è interessato può chiedere a noi, a Astra Ricerche o alla Fondazione Umberto Veronesi di vedere tutto, perché riteniamo casa di vetro che debba essere tutto assolutamente trasparente, qui non c'è nessuna strumentalizzazione, nessun interesse dietro, l'interesse è quello di rendere più respirabile la nostra vita, di chi fuma e di chi non fuma. Ma i ragazzi che cosa ne pensano? Una squadra di giovani rugbisti ci spiega come le motivazioni che spingono a fare sport siano le stesse di coloro che invece si rifugiano nel fumo. Io e gli altri siamo giocatori dell'S Rugby Milano. Siamo qui come testimonial della campagna No Smoking Be Happy, organizzata dalla Fondazione Veronesi, e crediamo che sia molto importante l'informazione per i giovani, per aiutarli a smettere di fumare. Ok, raccontaci la tua esperienza. Prima hai fatto un breve accenno all'esperienza che hai a scuola e nella vita sportiva. Le stesse motivazioni che hai nel giocare a rugby sono le stesse che spingono gli altri a fumare, sembrerebbe. Sì, nella presentazione fatta dal professor Enrico Finzi ho visto che normalmente si fuma per stare in compagnia, per rilassarsi, e sono proprio i motivi per cui noi abbiamo cominciato a giocare a rugby, cioè avere un punto di ritrovo, rilassarsi, sfogarsi, perché è assolutamente una componente importantissima dello sport. E poi è proprio un punto per socializzare e per stare insieme agli amici. Tu fumi? Io no, non fumo. Magari abbiamo provato, ma è una scelta che abbiamo fatto di non fumare, sia perché siamo giocatori di rugby e comprometterebbe le nostre prestazioni sportive, sia perché siamo informati sui danni che potrebbe provocare, cioè che provoca sul corpo. Ok, quindi non è conciliabile, diciamo, il fumo e lo sport l'avete testato? No, direi che non sono due cose assolutamente inconciliabili, e assolutamente per uno sportivo, cioè io consiglio vivamente di non iniziare a fumare e di non fumare. Boh, io non ho mai fumato perché non mi è mai piaciuto, ho provato una sigaretta ma non mi è mai piaciuto l'odore, neanche l'odore, e perciò poi peggiorerebbe anche le mie prestazioni sportive e di conseguenza non ho intenzione di cominciare a fumare. Mia mamma ha smesso mentre mio padre continua a fumare, però c'è una lotta casalinga per farlo smettere anche lui. Non vi piacciono le ragazze che fumano, è vero? A me dà fastidio, anche perché abituato a stare con i miei genitori che fumano mi sembrerebbe di stare con mio padre o con mia madre, quindi non è che sia proprio il massimo. No, poi in generale dà fastidio, a me dà proprio fastidio respirare, poi non lo so. Poi è comunque anche un segno di debolezza secondo me fumare. Ah, ecco, io credevo invece che ci si desse un tono con la sigaretta, invece no. Certamente, la maggior parte dei miei compagni di classe pensano che sia così, però secondo me è un segno di debolezza. Sarebbe importante comunque prendere delle scuole di riferimento in cui attivare delle campagne informative antifumo, però come ho detto prima, secondo me è molto importante informare prima, perché alle superiori può essere già troppo tardi. Lui è ex fumatore! E io devo ammettere che prima di iniziare a giocare a rugby fumavo anche regolarmente e devo ammettere che mi piaceva. Poi ho iniziato appunto a giocare a rugby e ho sentito comunque l'influenza che questo aveva sulle mie prestazioni e ho trovato nello sport motivazioni sufficienti per impormi e smettere di fumare. Da quel momento non ho più toccato una sigaretta e sono benissimo felice così. Le mie prestazioni sono molto migliorate e non ho nulla di cui rimproverarmi. Quindi è anche in qualche modo un consiglio a chi ha bisogno di smettere di fumare perché è dipendente, può attraverso lo sport riuscire a trovare quella forza che magari senza questo stimolo non avrebbe. Anche Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Veronesi, sostenitrice di campagne per la lotta contro il fumo, ci fa capire a che cosa va incontro un fumatore precoce. Dobbiamo intervenire in maniera concreta per limitare il fumo di sigarette nei ragazzi giovani. La Fondazione è già da anni attiva in questo senso, perché abbiamo questa campagna che si chiama No Smoking Be Happy, che è partita 3 anni fa proprio nelle scuole medie e inferiori. Chiaramente noi dobbiamo arrivare prima dell'età del liceo, perché quando arrivano al liceo i ragazzi ormai quasi sempre già fumano, comunque hanno già questa idea in testa. Noi dobbiamo dissuaderli, dobbiamo fargli capire quali sono i danni a cui vanno incontro, dobbiamo fargli capire quali sono i vantaggi del non fumare prima di arrivare al liceo. Dobbiamo cambiare il trend, dobbiamo cambiare le mode se vogliamo riuscire a davvero fare qualcosa di utile per questa generazione. E ci fa capire l'entità del danno che può provocare ad un adolescente il fumo? Ma l'entità del danno è sicuramente enorme. Il problema è che non è quantificabile, soprattutto non si esprime nell'età adolescenziale. Cioè, i danni del fumo delle sigarette si manifestano a distanza di tanti anni, di decenni, 30, 40 anni da quando si inizia a fumare. E parliamo dei danni importanti, cioè di quelli potenzialmente mortali, le malattie oncologiche. 9 decimi dei tumori del polmone sono causati dal fumo di sigarette. Il tumore di polmone ormai è la prima causa di morte sia negli uomini sia anche nelle donne, che una volta erano immuni perché non fumavano, adesso è diventato anche per loro la prima causa di morte per malattie oncologiche, quindi il tumore purtroppo più, non il più diffuso ma il più mortale, nel senso quello più difficile, che causa il maggior numero di morti in Italia e nel mondo. Nel mondo 5 milioni e 400 mila persone muoiono ogni anno a causa del fumo di sigaretta, ovviamente non solo tumori, malattie cardiovascolari, infarti, malattie circolatorie, quindi assolutamente dei danni importanti e purtroppo a un certo punto irreversibili. Quindi dobbiamo agire presto, dobbiamo agire sui giovani per impedire che questo fenomeno continui. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. All'origine dell'universo, per il gioco di oggi, sta per arrivare il quiz. Dunque, la teoria sull'origine dell'universo fu battezzata con l'espressione Big Bang. Chi le ha dato questo nome? Prima possibilità, Albert Einstein, che aveva un gran senso dello humor. Ci scriverete Albert. Richard Feynman, che amava le metafore militari. Ci scriverete Richard. Oppure, ultima possibilità, l'astrofisico Fred Hoyle, che la riteneva assurda. Ci scriverete Fred. Dove scriverete? Beh, al 349-238-6666, è il solito numero di SMS. Il libro che si vince questa settimana è Il genio italico, l'eccellenza italiana nella fisica degli ultimi 50 anni, e di questo libro parleremo fra poco. In collaborazione con IBS.it. Qui con me in linea Barbara Galavotti. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Da Roma, ma Roma cos'è? Non è a metà tra Ginevra e Gran Sasso. No, siamo un po' fuori asse siete un po' fuori dei neutrini. E qui l'asse deve essere molto molto molto preciso, eh? Beh sì, anche perché la distanza è lunga e basta un piccolo spassamento iniziale per andare a finire chissà dove, magari in Grecia. Esatto. Allora, lo aspettavano da 40 anni, che cosa Barbara? Era il primo neutrino trasformista, un neutrino che partisse in maniera sicura da una certa sorgente, come in una forma, come neutrino di un tipo, diciamo, muone in questo caso, muonico, e arrivasse a destinazione in una forma diversa, in questo caso un neutrino tau. Ci ha messo 2 millisecondi e mezzo dopo molti decenni di attesa. Allora, qui date un po' i titoli, bisognerà smontare tutto per capire bene. Il neutrino è uno degli oggetti più piccoli che esistano nell'universo e l'abbiamo lanciato da un punto all'altro del pianeta. Il nostro ospite questa sera, Barbara, è... E Luciano Maiani, attualmente presidente del CNR, però era direttore generale del CERN di Ginevra nel momento in cui si decise di iniziare questo esperimento, e quindi questo esperimento è un po' molto una creatura sua. Buonasera Maiani. Buonasera. Io sono stato al CERN, mi ricordo di aver fatto un corridoio che va giù in fondo a circa 150 metri sottoterra, è da lì che parte il neutrino, ci spiega parte, un po'. Sì, è da lì che parte, c'è un fascio di protoni che viene prelevato dal tunnel di LHC e viene mandato su un bersaglio questo bersaglio, in questo bersaglio si producono delle particelle instabili che vengono chiamate mesoni pi greco, che si possono focalizzare in un fascio molto stretto, molto energico. Questi mesoni pi greco in volo si disintegrano emettendo due particelle di cui una è il neutrino. Quindi il neutrino conserva la direzione iniziale del fascio di mesoni pi greco con molta approssimazione. Questo permette di fare un puntamento molto preciso al Gran Sasso. Il fascio di neutrini al Gran Sasso è largo, se ricordo bene, circa un chilometro e illumina completamente, diciamo, il laboratorio. Quindi non solo il rivelatore opera, che è il primo che è entrato in funzione, ma anche tutti gli altri, Icarus, tutti gli altri apparati possono eventualmente rivelare questi neutrini. È come un raggio di luce che parte da un punto, mano a mano si allarga e diventa un chilometro. Sì, diventa largo circa un chilometro, naturalmente al CERN è strettissimo, adesso non saprei dire, non mi ricordo i numeri, ma insomma questo è. Beh, tanto per chiarire, voi non avete dovuto fare un tunnel che raggiunga il Gran Sasso dal CERN, magari largo un chilometro in corrispondenza del Gran Sasso? Stavo appunto per dirlo, occorre precisare che per i neutrini la Terra è completamente trasparente, è come mandare un fascio di luce attraverso un vetro, non dobbiamo fare un buco nel vetro perché la luce passa. È talmente piccolo che attraversa la Terra, però ha fatto un viaggio di 740 chilometri e avete puntato sul Gran Sasso. E lì cosa è successo? Lì è successo che c'è questo rivelatore opera, che è sostanzialmente un pacco di emulsioni fotografiche, di lastre fotografiche, con una tecnologia molto avanzata, intervallate da lastre di piombo. Il piombo fornisce la materia necessaria perché ci sia una probabilità apprezzabile di una reazione del neutrino appunto con i nuclei della materia. In questa reazione il neutrino si trasforma nella particella a cui esso è associato, quindi era partito come neutrino mu perché era stato emesso insieme con la particella mu al CERN, ma in realtà la particella che produce il Gran Sasso è diversa, è quello che chiamiamo il leptone tau, una particella in tutto simile all'elettrone e al mu ma molto più pesante, e che quindi ci segnala che la natura del neutrino è cambiata strada facendo. Ecco, ma perché è così importante per voi vedere che questi neutrini possono cambiare natura compiendo dei percorsi? Intanto questo fenomeno è stato invocato per spiegare un altro fenomeno, che è la scarsità, per così dire, di reazioni prodotte dai neutrini che vengono dal Sole. Fu Pontecorvo che disse: sì, ma se il neutrino strada facendo cambia natura, quando arriva alla Terra non c'ha l'energia sufficiente per fare la particella mu con cui esso si è trasformato. Questa ipotesi spiega anche delle anomalie dei raggi cosmici, però non era mai stato visto il vero colpevole, il vero, come si dice, la prova di questa oscillazione, è stata vista in maniera indiretta, adesso si è visto che effettivamente questo neutrino è proprio cambiato perché ha prodotto un'altra particella. Bisogna aggiungere che questa possibilità di cambiamento è resa possibile da una massa del neutrino, e per lungo tempo si è pensato che i neutrini non avessero massa, come le particelle della luce, che hanno massa esattamente uguale a zero. L'oscillazione richiede assolutamente che ci sia questa massa, e questo apre un altro capitolo. Forse la massa è del tipo ipotizzata da Majorana prima di scomparire, probabilmente Majorana aveva ragione, i neutrini hanno una massa di tipo speciale, però questo ancora non lo sappiamo. Certamente sappiamo che hanno una massa, i neutrini sono molto importanti nell'universo, potrebbero giocare un ruolo nella massa dell'universo, anche se questo appare non tanto probabile. Insomma, l'aver provato con la certezza scientifica che il neutrino si trasforma, naturalmente apre un nuovo capitolo, che sarà il capitolo della massa dei neutrini. Oh, naturalmente noi studiamo queste cose, voi studiate le particelle, perché praticamente all'origine di ogni cosa nell'universo e anche qui, mentre sì, noi stiamo parlando, ci sono le particelle, questo è insomma il... Ah, sicuramente, mentre stiamo parlando noi siamo attraversati dai neutrini che vengono dal Sole in abbondanza. Maiani, la ringrazio, la lasciamo alla sua... Immagino che abbia una grande attività nel dover distribuire questi milioni di euro che... Ah, sotto mano, no? Nella sua stanza. E quindi si è indaffaratissimo perché dovrà darli a tutti. Insomma. Finirà? Non commento. Non commento. Il CNR naturalmente ha un grosso bilancio, molti dei milioni che ci servono per fare ricerca, anzi la maggior parte non li distribuiamo ma li prendiamo, certo, li prendiamo da contratti, da bandi eccetera, e anzi questo è uno degli aspetti più interessanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche di oggi. E chi segue la nostra trasmissione, Barbara, devo dire che può avere la dimostrazione che nonostante tutto si fa della grande ricerca, insomma. Beh, decisamente l'Italia resta nonostante tutto probabilmente uno dei paesi all'avanguardia nella ricerca scientifica in fisica, ma non solo. Non solo. Sì. Grazie, arrivederci. Va bene, grazie molte. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Nei vasti altipiani di Papua Nuova Guinea si trova Puncak Jaya, la più alta montagna di tutto il continente australe e la più alta in assoluto fra tutte quelle del nostro pianeta che si ergono su isole. Gli altipiani di Papua sono percorsi costantemente da grandi formazioni di nuvole che salgono dalle zone calde tropicali e lassù portano in ogni mese dell'anno intensi temporali. Sono altipiani le cui altezze medie passano dai 1.000 ai 3.000 metri, con vette che superano i 4.000. Puncak Jaya raggiunge i 4.800, ma alcune rilevazioni sembrano segnalare che supera i 5.000. Non ci sono strade in queste zone impervie. Si possono raggiungere solo dopo lunghe marce nella foresta pluviale. Quando si raggiunge la più alta montagna, la foresta finisce e ci si trova di fronte a pareti rocciose prive di vegetazione. Su un lato della montagna c'è qualcosa che una spedizione di geologi statunitensi cercherà di raggiungere nei prossimi giorni. Un ghiacciaio. In questa zona del pianeta, quella tropicale, ci sono solo tre presenze di ghiacciai. Sulle Ande, alla latitudine della Colombia e dell'Ecuador, sul Kilimanjaro, in Africa, e qui, in Nuova Guinea, sulla montagna della Vittoria, perché questo significa Puncak Jaya, il cui ghiacciaio quindi è l'unico guardando a est e a ovest per svariate migliaia di chilometri. Ma il tempo e il riscaldamento del pianeta sembrano aver innescato un conto alla rovescia per questo ghiacciaio. Da tempo si sta riducendo ed ora le foto satellitari segnalano che la sua scomparsa è molto vicina. Il fatto è che i ghiacciai perenni sono una parte importante della memoria della Terra. Perforandoli a vari livelli e recuperando campioni di acqua che si congelarono in varie epoche, 1000, 2000, 10.000 anni fa, noi riusciamo a recuperare importanti informazioni sulla storia del clima. Se un ghiacciaio scompare, questa storia va persa. Si riformerà certamente, ma a quel punto sarà il giovane archivio di una storia completamente nuova. La spedizione americana va quindi lassù per recuperare per tempo dei campioni di ghiaccio. La loro forma è quella di lunghi coni con una base stretta che hanno preso il nome di carote, giustamente. Lassù si potranno estrarli, ma come portarli a valle senza che si sciolgano? Perché è solo in laboratori specializzati che si potranno studiare. Per tentare di risolvere il problema, gli scienziati non ne sono sicuri, ma è una gara contro il tempo e quindi i rischi si mettono in conto, saranno utilizzati degli elicotteri che con non poche difficoltà a quelle altezze agganceranno le carote di ghiaccio e le porteranno in una piccola cittadina che si trova a circa 2000 metri di altezza. Tembagapura è il suo nome. Lì si trova un magazzino industriale per la conservazione di alimenti dotato di una sufficiente pare refrigerazione. Da qui si potrà con più calma portarli negli Stati Uniti. Si cercherà di capire quanto indietro nel tempo il ghiacciaio del Puncak Jaya potrà raccontare sul clima. Un primo dato interessante sarà certamente estraibile però, ovvero una misura degli effetti atmosferici della esplosione del vulcano Krakatoa nel 1883, una delle più grandi catastrofe naturali a memoria d'uomo. L'esplosione iniziale del vulcano fu udita a 3.500 chilometri di distanza. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Abbiamo già tirato in ballo Einstein per il nostro quiz, adesso lui ritorna e torna perché parliamo di api, quelle che volano di fiore in fiore, quelle lì. Perché Einstein? Ve lo spiega subito Chiara Albicocco. Se un giorno le api dovessero scomparire, all'uomo resterebbero soltanto 4 anni di vita. A pronunciare questa frase non fu un apicoltore particolarmente presuntuoso, ma bensì Albert Einstein. Abbiamo scelto questa frase abbastanza altisonante per far comprendere quanto le api siano davvero importanti nei nostri ecosistemi, nella nostra economia, e quindi anche quante conseguenze disastrose ci siano state dopo la grande moria delle api di questi ultimi anni. Mia ospite stasera è Annalisa Balloi. Buonasera Annalisa. Buonasera. Lei è ricercatrice della Facoltà di Agraria di Milano ed è referente di uno spin-off che si chiama Micro for You, che si è appena costituito a Milano, intanto congratulazioni, e avete brevettato un prodotto che potrebbe in qualche modo proteggere gli alveari dall'attacco di ad esempio alcuni batteri e di alcuni parassiti. Ma intanto partiamo con ordine: questi batteri potrebbero essere una delle cause di questa nota moria delle api che tanto ha flagellato, diciamo, il pianeta intero? Sì, in effetti le cause che contribuiscono alla moria delle api sono diverse. Alcuni attribuiscono questa moria all'inquinamento, cambiamenti climatici, altri all'uso dei pesticidi, però una parte importante viene appunto da patologie batteriche e virali che causano ingenti moria negli alveari, e queste morie tuttavia non sono ben controllate, prima di tutto perché molti apicoltori non denunciano l'insorgenza di queste patologie, appunto patologie batteriche virali, agli organi di riferimento, che sono le associazioni sanitarie locali, e quindi non possiamo neanche avere ben chiara una stima. Comunque orientativamente un buon 30%, ma in alcuni casi anche il 50% delle api che muoiono a causa di questo genere di patologie. E voi, facendo questo tipo di ricerche microbiologiche nella Facoltà di Agraria di Milano, avete scoperto, non diciamo una soluzione, ma sicuramente un aiuto per gli apicoltori. Senza dubbio. Allora, il prodotto che noi andremo a commercializzare è un mix di batteri che albergano nell'intestino delle api, e date nelle giuste proporzioni e nelle giuste quantità le api stesse, questi microrganismi agiscono come un probiotico in grado di proteggere tali insetti dalle patologie batteriche. È una sorta di integratore probiotico, esatto, come quelli che si vendono al supermercato anche per gli umani, tipo Yakult o Actimel, insomma, non per far pubblicità, ma insomma per intenderci. L'effetto più o meno è quello, sì, un effetto probiotico per, da un lato, contrastare direttamente queste patologie, dall'altro invece stimolare il sistema immunitario delle api. Quindi innalza le difese immunitarie. Esatto, sì. Ecco, e come si presenta questo prodotto? Cioè viene applicato direttamente sull'alveare, no? Allora, i batteri in pratica vengono ridotti in polvere, quindi la biomassa batterica viene ridotta in polvere. Questa polvere viene poi imbustata, e le bustine sono, diciamo, il prodotto commerciale, ecco, la bustina con i batteri liofilizzati. L'apicoltore, per poter utilizzare il nostro prodotto, dovrebbe aprire la bustina, disciogliere la polvere in acqua e poi spruzzare la soluzione batterica, spruzzarla direttamente sull'alveare. Molto semplice, proprio facile da maneggiare, e diciamo ha una somministrazione diretta, perché non solo i nostri batteri vengono a contatto con le api, ma con tutto l'alveare, quindi anche le api, muovendosi, anche quelle che non sono state raggiunte direttamente dal prodotto, si sporcano. parlando di batteri e quindi anche loro avevano a contatto con i batteri probiotici. E ovviamente voi avrete fatto degli studi per dimostrare l'efficacia di questo prodotto e i risultati sono piuttosto incoraggianti. Esatto, in pratica noi abbiamo cominciato, quindi il gruppo di ricerca di Milano, guidato dal professor Da Fonte e dalla professoressa Sara Burin, ha avviato questo studio più o meno da 5 anni. Alla fine di questi 5 anni siamo riusciti a individuare un formulato microbiologico e testato sulle api vive, quindi sulle larve delle api, siamo riusciti a dimostrare come il nostro prodotto sia efficace nel contrastare le patologie batteriche. L'esperimento è stato molto, molto interessante perché abbiamo preso delle larve di api dalle alveare e le abbiamo fatte crescere in laboratorio, quindi in ambiente controllato, le abbiamo fatte crescere con una dieta zuccherina arricchita dei nostri batteri. Successivamente la stessa dieta zuccherina, invece di essere arricchita con i batteri probiotici, è stata arricchita col patogeno, quindi noi abbiamo esposto le larve direttamente al patogeno e nel 90% dei casi abbiamo visto che le larve trattate con i nostri batteri non si sono ammalate. Ah, quindi quasi tutte non si sono ammalate. Esatto, a fronte di un controllo in cui abbiamo dato solo il patogeno e lì invece abbiamo visto che la patologia ha colpito tutte le larve. Quando sarà in commercio? Se possiamo fare una valutazione così ovviamente approssimativa. Adesso diciamo che è stata depositato il primo brevetto, quindi il brevetto italiano del prodotto. Dovremmo verificare direttamente sull'alveare, quindi non più in laboratorio, l'efficacia, per confermare l'efficacia del nostro prodotto. E poi ci sarà tutta una parte sulla registrazione del prodotto, perché prima di metterlo in commercio il nostro prodotto dovrà superare una serie di test, certo, di analisi previste dalla burocrazia diciamo comunitaria per poter essere messo in commercio. Quindi dovremo interfacciarci sia con il Ministero della Sanità qui in Italia, ma anche con la Commissione Europea. Quindi possiamo prevedere un paio d'anni forse? Sì, un anno e mezzo. Va questo bene. Dovrebbe essere il range. Ecco, nelle vostre ricerche appunto in campo microbiologico in realtà avete scoperto altre possibili applicazioni. Voi con questo tipo di ricerche potreste anche sviluppare dei appunto prodotti probiotici per consentire la coltivazione ad esempio di piante o di prodotti agricoli anche in ambienti dove è difficile la coltivazione, quindi ambienti aridi, desertici. Sì, infatti diciamo che tutto il nostro prodotto si basa su una constatazione, che il mondo è dominato dai batteri e che comunque noi possiamo utilizzare l'attività metabolica dei batteri a vantaggio dell'uomo, per dare un servizio all'uomo. Un esempio è appunto il probiotico delle api di cui abbiamo appena parlato, ma ci sono altri esempi, ci sono dei batteri che con la loro attività metabolica riescono ad aumentare la crescita delle piante e a garantirne una buona crescita appunto anche in terreni aridi o comunque sottoposti anche a stress salino, quindi batteri che aiutano le piante a crescere meglio, come dei probiotici per le piante, ecco. Altri settori interessanti sono la bioremediation, per esempio, in cui sempre i microrganismi giocano un ruolo molto importante nel disinquinare un sito contaminato. Ho capito, interessante. Ci faccia sapere dei prossimi prodotti, delle prossime applicazioni. Intanto, veramente in bocca al lupo per il vostro spin-off neonato. Grazie Annalisa Balloi. Grazie mille, a presto. Indubbiamente viviamo in un mondo strano. La prossima settimana una commissione dell'UNESCO consegnerà una serie di premi a un gruppo di scienziati che lavorano nel campo delle scienze biologiche e delle scienze della vita in genere. Premi consistenti, intorno ai $300,000. È la prima edizione. Si tratta in particolare di un premio che è messo in palio da un paese africano, la Guinea Equatoriale, piccolo, 1 milione di abitanti, ma molto ricco, perché nel 1992 si scoprì che aveva petrolio in gran quantità. Solo che ricco è solo lui, Teodoro Biang Mazogo, il presidente autoelettosi con un colpo di Stato nel quale uccise lo zio. Gli altri, quelli che non sono della sua famiglia, a meno degli zii viene da dire, non stanno bene. La gente di questo paese è povera e quelli che si oppongono al suo regime vengono imprigionati, picchiati, molto, molto spesso uccisi. Una bella dittatura, per dirlo in breve. Solo che in questa sezione dell'UNESCO, quella che assegna il premio, attenzione, l'UNESCO ha molte, moltissime strutture diverse, sono presenti in maggioranza molti stati africani. Allora succede questo. Da una parte, poiché una bella percentuale di stati africani è governata da dittature, queste non pensano certo di protestare e poi dicono che è anche l'unico premio scientifico messo in palio dall'Africa. Gli altri paesi non africani che fanno parte dell'UNESCO, insomma tutti gli altri, hanno anche protestato un po', diciamo così, perché, si è detto, hanno prevalso ragioni diplomatiche, un po' grezze, forse bisognerebbe dire greggio e non grezze. Il fatto è che i premi verranno assegnati, vedremo se coloro che li riceveranno li rifiuteranno. Anche i nostri antenati, quelli molto lontani da oggi, sono stati in grado di alterare il clima del pianeta, ma l'hanno fatto nella direzione opposta. Adesso vi spiego. Non è certissimo, ma molti dati recuperati da un gruppo di ricerca della University of New Mexico pare proprio che vadano in questa direzione. Dunque, sarebbe successo questo. Circa 20.000 anni fa, quando alcuni nostri colleghi umani raggiunsero le terre che oggi chiamiamo America del Nord, trovarono tanti grandi animali, grandi mammut, per esempio, ma ce n'erano anche altri, anche se, ricordiamolo, tutto ciò che era dinosauri e dintorni, no, questi erano già scomparsi da tempo. Però i mammut, si trattava sempre di roba intorno alle 7-8 tonnellate, eh? C'erano animaloni di questo genere. Come sappiamo, i grandi erbivori sono anche solerti produttori di metano. Mangiano un sacco d'erba, questa fermenta in un processo digestivo abbastanza complicato e poi, insomma, d'accordo, ci siamo capiti, esce fuori. Doveva essere uno spettacolo quel mondo, pensate a queste grandi pianure solcate da branchi di mammut. Comunque, cosa facevano i nostri antenati? Li cacciavano e lo fecero talmente tanto che quelle specie di animali piombarono al di sotto della soglia minima di riproduttività e scomparvero tutti. Dai dati di molte ricerche risulta che la scomparsa di questi grandi animali è intorno ai 13.000 anni fa. Analizzando campioni di ghiaccio perenne si scopre che prima di 13.000 anni la presenza di metano nell'atmosfera era di 700 parti su un miliardo. Dopo l'estinzione passò a 500 parti su un miliardo, quindi scese molto, una bella differenza insomma. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz, ve lo ricordate? Come è nata l'espressione Big Bang? Abbiamo chiamato in causa tre grandi scienziati, Einstein, Feynman e l'astrofisico Fred Hoyle. Bene, l'invenzione di questa definizione Big Bang è dovuta a Fred Hoyle, che nel lontano 1949, in una trasmissione della BBC, la rete radiofonica inglese, e lui, parlando appunto di questa teoria sull'origine dell'universo, disse: e ci fu un grande botto, e Big Bang, e questa cosa ebbe un tale immediato, fragoroso successo che nel giro appunto di poche ore praticamente diventò la definizione usata universalmente per l'origine di tutte le cose. Leggo sulla copertina di un libro Il genio italico come titolo e l'autrice Ludovica Manusardi Carlesi è qui con me questa sera. Ciao Ludovica. Buonasera. Ci diamo del tu perché sei una giornalista di scienza. Hai scritto questo libro, il titolo Il genio italico sembrerebbe molto pomposo, sotto c'è scritto l'eccellenza italiana nella fisica degli ultimi 50 anni, però Ludovica è così, cioè non è eccessivo, c'è una grande genialità nella storia di questa area scientifica. Allora, posso italiana. Aggiungere che questo titolo è stato trovato e proposto da il giovane editore che si occupa della Bietti, quindi il fatto che sia stato proposto da un giovane di neanche 40 anni è indicativo, si vede che sente questa proprietà, diciamo così, italica di fare delle cose di eccellenza e di aver fatto delle cose di eccellenza. Il genio italico, edito da Bietti, come ricordavi tu poco fa. È una storia piena di personaggi che hanno una rilevanza assolutamente mondiale. E poco fa, prima di registrare, tu mi dicevi gli italiani conoscono un sacco di altri personaggi come Pasolini, come Montale, come mai non conosciamo questi grandi della fisica, della nostra scienza? Diciamo che la scuola di Fermi, che è quella che poi ha creato quello che è venuto dopo, è più conosciuta, si è stato scritto molto su questa avventura del gruppo di Via Panisperna, mentre invece quello che è stato fatto dopo la guerra, in condizioni anche forse più difficili, non è conosciuto al grande pubblico. Dal momento che io ritengo che la scienza e la ricerca facciano parte importante dello sviluppo di una nazione moderna, ho ritenuto così ricordare che ci sono stati dei personaggi che hanno costruito in anni piuttosto difficili, con delle trovate incredibili, anche in condizioni piuttosto difficili, delle cose egregie sulla quale poi si sono sviluppate tutto quello che è oggi la ricerca di attualità e la ricerca contemporanea. Con gli italiani che appunto nella fisica occupano ancora dei livelli, sì, altissimi, perché oggi non solo il gruppo di Via Panisperna è stato un periodo glorioso, ma abbastanza glorioso è stato anche quello che è venuto dopo. Non dimentichiamo che i nostri ricercatori hanno dato grandissimi risultati anche al CERN. Non dimentichiamo che Maiani è stato direttore del CERN, Ruppi ha preso un premio Nobel al CERN, Cabibbo forse avrebbe dovuto prendere un premio Nobel, su questo possiamo poi parlare se vogliamo. C'è un altro premio Nobel mancato, tu ne parli qui nel libro, quello di Giuseppe Beppo Chiarini. Beh, secondo me i premi Nobel mancati sono quattro. Bruno Rossi, sì, italiano, che poi ha lavorato in America, Urbana, Illinois, nel campo dei raggi cosmici. Oreste Piccioni, che in condizioni assolutamente incredibili a Roma, insieme a Conversi e Pancini, fece quella ricerca sui raggi cosmici di cui parlo, riuscendo a far capire come era strutturato, diciamo così, il nucleo e come erano le forze che lo tenevano insieme. Poi certamente Occhialini e certamente Cabibbo. Su Occhialini qualcuno dubita che avrebbe meritato il Nobel, perché forse diciamo il fatto che sia stato dato a Powell e poi a Blackett per lavori che avevano fatto insieme, il contributo di Occhialini, questo diciamo nel team, non era poi stato così rilevante. Io ritengo che però forse un premio Nobel avrebbe meritato. Senti, erano anni in cui i fisici facevano cose grandissime per la scienza, i fisici italiani, e però erano degli artigiani, lavoravano in botteghe, sì, praticamente. Lavoravano in botteghe, per esempio, tanto per fare due esempi a me vengono in mente, quello di Oreste Piccioni, che lavorava insieme a Conversi e Pancini in tempo di guerra sotto i bombardamenti tedeschi in uno scantinato di un liceo classico a Roma, liceo Virgilio. Incredibile come abbia fatto a raggiungere quei risultati. Altro esempio è quello che hanno fatto a Frascati. Insomma, a Frascati hanno realizzato in pochissimi anni tre grandissime macchine, Adone e Frascati Tokamak, con mezzi e con che non erano certamente pari, nemmeno confrontabili con quelli che avevano gli Stati Uniti. E però da quelli sono partiti poi tutti i vari step delle macchine acceleratrici, di cui l'ultima proprio è l'LHC, che è tornato in funzione un paio di mesi fa al CERN di Ginevra. Ci sono anche episodi divertenti di macchine che arrivano al confine. Sì, ci sono episodi divertenti, perché ne parlo nel testo, nel libro, perché quando l'anello ADA aveva bisogno, si è reso conto che diciamo aveva bisogno di un iniettore più potente, si decise di portarlo oltre confine e venne trasportato su un camion con tutto l'apparato per mantenere all'interno il vuoto. E la storia dei doganieri, che erano assolutamente increduli e assolutamente perplessi nell'immaginare che veniva trasportato un qualche cosa all'interno del quale c'era il vuoto, è veramente divertente. Poi l'intervento del ministro degli esteri e del ministero dell'industria fece sbloccare la situazione, perché loro al confine volevano non sapere che cosa c'era dentro. Solo che allora se mettevano il naso dentro, come c'è dentro il vuoto? Effettivamente era sembra quasi una gag, no? Allora, Il genio italico, edito da Bieti. Qui c'è una storia che mette insieme queste grandi genialità, questa grande arte di arrangiarsi, ed è proprio una storia pochissimo raccontata. Ed è anche una grande storia avventurosa. Grazie Ludovica Manusardi Carlesi e auguri per il libro. Grazie, buonasera. Quante apparecchiature elettroniche, tecnologiche di varia natura, digitali, oggi abbiamo in casa, tra quelle che usiamo e quelle che non usiamo? Questo dato, questo problema, è stato analizzato recentemente da una ricerca commissionata da eBay, e credo che tutti voi che ci state ascoltando bene o male avete sentito di eBay, insomma è il più grande supermercato dell'usato planetario, cosa mai vista, con uno scambio di giornaliero credo di qualche miliardo di prodotti, non mi azzardo ma i numeri saranno di questo genere. Ecco, questo problema è stato analizzato su commissione di eBay da una società di consulenza e ricerche, AdValue italiana, e qui ho questa sera come ospite Andrea Paracchini. Buonasera Paracchini. Buonasera a lei, buonasera anche ai suoi ascoltatori. Senior consultant appunto di AdValue. Allora, voi avete fatto questa indagine per cercare di capire quanta tecnologia c'è nei cassetti, non nelle tasche, quelle che ci portiamo in giro, insomma, quanta tecnologia abbandonata in un certo senso, no? Sì, abbiamo innanzitutto un dato così per i suoi ascoltatori, per lei. Questa indagine è stata effettuata su un campione di 1000 persone rappresentativo della popolazione italiana tra i 18 e i 65 anni. Uh-huh. E, questo è quello da considerare, quindi abbiamo escluso delle fasce più anziane. La ricerca ha voluto indagare il rapporto con la tecnologia, secondo me, su due dimensioni. Dico secondo me perché è qualcosa che ci siamo accorti ex post a livello più interpretativo, e cioè da un lato tutta quella che può essere l'oggettistica, i device, tutte quelle cose che abbiamo in casa, ma dall'altro su un rapporto che forse è ancora abbastanza labile o più evanescente, più difficile da monitorare, che è con la tecnologia come azione effettiva, che quindi potrebbe essere appunto quella su internet, cioè internet come strumento di azione. Perché sul primo versante abbiamo cercato di indagare quali sono gli oggetti innanzitutto posseduti, e c'è di tutto ovviamente. L'oggetto, come potrà immaginare, l'oggetto tecnologico più posseduto è ovviamente il cellulare. Certo. Insomma, ci sono tanti tanti strumenti nelle case degli italiani, esattamente. L'aspetto abbastanza interessante è che noi abbiamo stimato circa 21 milioni di persone, significa che una percentuale molto alta della popolazione di riferimento, la popolazione di riferimento sono 37 milioni di persone, quindi questo campione rappresenta 37 milioni di persone. Sì. E se noi apportiamo la percentuale che abbiamo scoperto, potrebbero essere circa 21 milioni di persone che hanno in casa oggetti inutilizzati di varia natura, che sono un po' proporzionali poi a quelli posseduti. E, se consideriamo che l'oggetto che si cambia, uno degli oggetti che si cambia più frequentemente, il cellulare, possiamo facilmente immaginare che siano quelli tra gli oggetti inutilizzati che giacciono nei nostri cassetti. E però funzionanti, no? Sono oggetti, sì, ancora perfettamente funzionanti, sono oggetti che il cui turnover è più una questione di moda, è più una questione di aggiornamento, di upgrade. Ormai... Ecco, però le chiedo, questi oggetti qui che cosa fanno? Stanno lì in deposito permanentemente? C'è una tendenza a rivenderli, a darli ad altri? No, questo, ecco, l'aspetto abbastanza singolare è questo. Le do qualche dato, diciamo, sulla totale del campione. Quando noi chiediamo, vabbè, ma di questi oggetti che cosa fate? Tutto questo materiale che c'è nei vostri cassetti, che c'è in casa vostra, che cosa succede? Cosa ne fate? Beh, c'è un 41% che dà una risposta quasi un po' di ansia, no? È un po' l'approccio a tutti gli oggetti che noi conserviamo, cioè, non so, li tengo perché in fondo possono sempre servire, possono sempre tornare utili. Il 38% li spreca, li brucia, li butta, anche se sono funzionanti, li butta via. E poi abbiamo un 22% che ci dice che se ne è dimenticato, che si ricorda di averli solamente nel momento in cui noi gli abbiamo chiesto. Quindi è bassissima la percentuale di chi vende, esatto, gli stavo chiedendo questo. Solo il 7% ha dichiarato di venderli. Però quello che è singolare, se mi permette una considerazione, noi abbiamo poi ovviamente chiesto, ma sarebbe propenso a venderli? Quale strumento, quale piattaforma, quale mercato, diciamo, utilizzerebbe? E lo abbiamo chiesto a tutti, anche a chi non ha oggetti, anche di immaginare di averli. Beh, insomma, il 53% della popolazione ci dice che sì, sarebbe propenso a venderli. Ovviamente loro dovrebbero chiedere, ma prima voi in realtà non l'avete fatto, siete solamente in 7 su 100 che avete effettivamente venduto. E il 46% lo farebbe su portali come eBay. Questo secondo me segnala una differenza fondamentale nel rapporto con la tecnologia, tra percezioni e realtà. Noi osserviamo che quella che oggi è la tecnologia dominante, che potrebbe essere la rete, questa piattaforma di comunicazione e di scambio, di fatto è solamente, sembra essere qualcosa che ha liberato più l'informazione, ma internet è anche uno strumento di azione, si possono fare cose vere e le persone se ne rendono conto nel momento in cui ci pensano effettivamente. Io insomma compro oggetti veri e pago con soldi veri. Pensi che il dato che noi abbiamo rilevato è che se quando noi chiediamo di immaginare, ma se tu vendessi gli oggetti che hai in casa, quanto pensi di guadagnare? La media è di 160 euro, questo significa che su un campione come il nostro ci sono differenti variazioni, ci sono persone che hanno detto anche molto di più, ma se sono 160 euro e se effettivamente insomma non mi costa nulla, mi costa poco in termini di tempo provare a venderli, significa anche che io poi quei 160 euro potrei per esempio recuperarli direttamente con un nuovo acquisto. Certo. Io divento quindi protagonista di una rete commerciale, non solo il destinatario. Voi avete fatto un calcolo che c'è un valore immobilizzato, non immesso nella liquidità diciamo generale di un paese, di 6 miliardi di euro, quindi una cifra assolutamente altissima, no? Sì, se su questo campione appunto noi moltiplichiamo questi 160 euro per la popolazione di riferimento, la stima potrebbe essere di 6 miliardi, si potrebbero muovere 6 miliardi. Bene, grazie Andrea Paracchini per questi dati e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Come era prevedibile, anche questa puntata di Mebius è finita. Fra api che sono piccole e neutrini che sono piccolissime, anche di fumo che serve a dire il vero per tenere lontane le api, ma sarebbe meglio averle vicine, infatti, perché si fuma ancora troppo fra i giovani. Va bene, alla prossima settimana e buona serata a tutti e a tutte.